cucina l'uomo giusto per te. Sei una bomba amore re, ma tu di che segno sei? Non ti accorgi che mi piaci nella testa, che cos'hai? Come faccio a dirti che più ti penso e più mi vai? Se ritrovo il mio coraggio solo quando non ci sei. Sono bomba e tu lo sai, mi fai vivo quando vuoi. Quello sguardo un po' da duro, dimmi non lo cambi mai. E comunque amore mio, il sistema non lo so, ma son certa che con te io prima o poi la spunterò. Sorridi e te ne vai. E comunque amore mio, io lo so che fai per me. Anche se non mi fidi, voglio dire che amo te. Se mi ascolti fai festa. Festa. Se ti senti un po' fuori, guarda se dovevi capitare proprio a me. Quando con gli amici vai, tu chissà che cosa fai. Io vorrei proprio sapere se di me non parli mai. Sono una bomba e tu lo sai, e non ti sbilanci mai. Eppure ai tuoi difetti so che mi affezionerai. E comunque amore mio, anche se l'indiano fai, se tu non esistessi è così che ti vorrei.